In that dialogue, you heard another possessive adjective. Vostro. Questo è il vostro tavolo. It means your, and you use it when referring to more than one person. Like all the other possessives, it changes according to the word that follows. Per esempio, questa è la vostra camera. This is your room. Questi sono i vostri panini. These are your sandwiches. Queste sono le vostre pizze. These are your pizzas. Questo è il vostro autobus. This is your bus.